lì a, a discutere, ho lasciato perdere tutto. E allora qua a Sassari avevano rubato un baracchino che è la buona anima di questa persona qua, che adesso non c'è più, e aveva messo un linearetto dentro, un linearetto da 50 watt mi pare, e praticamente c'era il posto dove aveva messo questo linearetto e gliel'hanno rubato, e un giorno l'ha riconosciuto nella modulazione, anzi gliel'hanno detto gli altri, quello è il tuo apparecchio, se pari tu fammi dei, e questo che te lo sto vendendo, si interessa a qualcuno, lui ha detto sì, si interessa a me, e andate, si è dato l'appuntamento lì alla stazione, quando lui era dentro l'apparecchio, l'ha fatto vedere, l'ha controllato, era il suo, appena dura contro una sussa, poi ci ha fatto lui i carabinieri. Diciamo che allora in quel periodo era un casino, perché ci ha chiamato anche i carabinieri, è fortunato che i carabinieri non l'hanno denunciato a lui. Non l'hanno denunciato. addirittura, a me me l'hanno intuito, ma detto, vedrà che la prossima volta non lo fanno più, però gli devo andare ancora più forte, così maledetto i carabinieri a me. A chi ha giocato tre bassoni che venivano a rompere i carri, stavano rompendo le scatole tutto il giorno, tutti quanti quelli che passavano gli rompevano le scatole. Allora c'è padre Rubini, ma la volta suia, e ha giocato tutte e tre. Però vuol dire che quei carabinieri erano di quelli, quei tosti, non ne ho tutti a lunga, chi ha pensato più a bugarne in caiente a mezz'ora di capo. E intanto ti l'hanno ricaricato in macchina, perché si sono scambiati per, si sono scambiati, come si chiama, la squadra narcotici, mi hanno detto lì qua non può parcheggiare, siamo della squadra narcotici, ero dovendo atterrare a Lugano, questo carico di piniera. Non avevo voglia sinceramente di stare a sopportare a nessuno, e lo stacco, non volevo mai tornare a casa, e allora me l'ha vestita e me l'ha gettata a casa, quando me l'ha vista tutta la santa, ha detto ma te l'ho rotto la scatola qui, ti ho detto sì, hanno guidato una giussa, allora gli ho fatto la bada di viso, me l'ha avvisato che era gessato, gli ho privato sul gesso. Non era sano la culo. E un uomo gli ha detto, bene, avete trovato la persona giusta, siete tutta la sera che rompete le scatole alla gente. E poi quando hanno avuto il coraggio e chiamano i carabinieri, capito? E niente. Ecco, non dovevo più farlo, però se lo sa lui l'avevo avuto ancora di più. Così va detto. Cosa hanno fatto questi qua? E così, così, sono scambiati per scordare tutti, dice aspetta, aspetta, andiamo. Cos'è questa storia? Adesso, e poi sono venuti tutti in grefa, mi volevano vedere, se non scendi ti bruciamo il carico. E mamma mi diceva, non ci scendere che sono in tanti, non ci scendere che sono in tanti. Io ero pari di nonno qua, e i carabinieri a casa mia non sono mai venuti. Adesso scendo di più, non ne ho paura. E era una bella grefa, aveva chiamato gente, capito? Certo, ha fatto bene, ecco, però io sono venuto tutti, sono io via, già, c'è gente che fa i prepotenti, poi alla fine non sono niente. E loro devono ringraziare solo una cosa, che il giorno c'era la partita e tutta la grefa del sacco correre tutti alla partita. Anche se no, se voleva stare dietro il sacco cuore, l'abbiamo avuto una sussa, che si era lamentato, invece ha ganato un gamba di te pre. E gamba, cos'è? Era il sassarisi? Rompi balle, non lo so se era il sassarisi, era i assiluchi, non lo so. Allora era tutta la sera che rompevano le scatole della gente, dice che una signora è uscita dalla chiesa, dal sacro cuore, era una gobbetta, no? Ha detto signora ce la fa scroccare la gomma, e lui gli ha detto già l'ho trovato il piede per la vostra scarpa, brutti maleducati che non siete altro, allora, signora ci scrocchi la gomma, mi diceva, non ho capito, ma l'ha raccontato quel signore. Mi pare che vedi le burubrima, vedi. E c'era, non c'era. E vabbè, ero ragazzo allora. sposata, ero fidanzato ancora. Già è poco, voglio io, l'eternità. Ma pare che si raccontano di roba di animali. Non ti rendi conto del tempo che passa? Non so, noi una volta, non so se ti ricordi di Pietro Bacio di Ferro, che stava qua vicino a me. Il cognato è il fratello di Luca Valmonte, il cognato. Una volta eravamo in spuntina, eravamo in campagna sua, tutti ubriachi, e prendiamo e partiamo a Sassari, e mi siamo andati appoggiati gli asini di fronte all'emiciclo, e arriva questo qua con una DR6, era un finocchio, era avevano fatto entrare 30 a Rogosa, un viaggino, avevano fatto entrare con la macchina, l'abbiamo fatto incassare tra un pare e l'altra, ci mangiano le scelicizi, arrivi la pulizia, ci mangiano le scelicizi. Cosa ce l'abbiamo fatto da ragazzi? Allora c'era un amico mio che lavorava in un ristorante di Alitalia e praticamente quando usciva parcheggiava la macchina dove c'era prima l'autorinova ingoiata di fronte e dice che si avvicinava sempre questo tipo e lo perseguitava, aspettava che uscisse con la macchina e lo perseguitava, gli andava appresso e noi eravamo tutti in baracchino, questo qui lo stesso al baracchino e ci siamo chiamati macchina 1, macchina 2, macchina 3 e detto tu portala a San Pietro, da lui gliela lanciamo lui abbiamo regato in campagna di San Pietro, lui si è andato verso San Pietro e lui si è appresso e come stava passando io esco da un vito, da un vico, uno gli taglio la strada, l'altro lo taglio dietro, lo blocchiamo, adesso devi pagare il biglietto perché sennò perché perseguiti sopra amico mio? No, io non perseguito nessuno, non è vero, chi l'ha detto questo? E si studia che era lì e l'avevamo fatto che a caso tu non ha più vicino. Già ti grido. Fino a uno dove sei? Nel vicolo, va bene, noi siamo dietro a lui, come passa lo blocchiamo. Capo, molte volte, ma tu non ci andavi mai a Corso, da Giuseppe al bar della stazione? Sì, io viaggiavo in treno prima a Porto Torres. Capo, noi ci andavamo spesso, lì a bere, al bar della stazione. Sì, noi andavamo anche quando facevo il servizio ambulanza, che tornavamo da fuori, anche era l'unico bar aperto alle 6 di mattina, andavamo a farci la colazione. Infatti era l'unico. Perfetto, ho conosciuto il padre, ho conosciuto tutti i vecchi, no? Sì, anche io ho conosciuto il padre. Al padre, amico, fratello. Adesso che fine ha fatto Giuseppe? Non l'ho più sentito, ma tutto ci ha venduto. Non lo so. A me non mi saluta di. Se mi saluta solo se lo saluto io, se no fa finta di non vedere. L'ultima volta che l'ho sentito era certo lavoro, prima lavorava diciamo Alghero, poi tutto questo dove adesso lavoro, poi dove che ti ho detto. E Alghero lavorava d'estate, faceva la stagione come custode. Roba stagionale, quello è un cavolo. Custode agli ombrelli, però gli ombrelloni per non farli fregare, capito? Sì, già ho capito, sicuramente era lì al Lido di Alghero. Sì, al Lido. E dice che c'erano queste marmaglie che andavano di notte e ci aveva portato una pistola di quelle, come si chiama, quelle scacciacari, dai. E per fare spaventare ha fatto dei colpi, hanno chiamato i carabinieri e ci vanno la risa. È un matto questo. Non sai che quelli fanno quelle persone fanno il rumore di quella vera. E poi lì c'è tanta gente di fronte, ci sono le case, c'è l'albergo, capito? Qui la memoria di quella. Poi l'ho regalata a un cacciatore per fare il rumore per quando va a caccia, per i cinghiali. Ma non sono imbarazzo lì a fare casino. Fanno casino di imbarazzo. Diciamo che ce l'ho avuto anche io, ne ho avuto diverse, ne ho avuto due o tre. E ho avuto anche la carabina, quella che spara davvero, la Diana. La Diana, quella che c'aveva, era molto bella, c'aveva tutte le mani con legno, bella, proprio quello che mi ha fatto male. Ma a me piaceva, solo che sicuramente l'ho cambiato la gola, che era un bel po' tempo. Ecco, la Diana 35, quella lì l'ho avuta anch'io, è bellissima, la Diana 35, tutta in legno era fatta, bella decorata, ma bella veramente, e c'aveva una potenza che era micidiale. E io c'avevo anche il cannocchiale per vedere a distanza, c'era ultravioletti, poi c'avevo il portafucile, ci stava tutto quanto, c'era il cannocchiale montato, ci stava dentro il portafucile, proprio la questura. Capo, no, io non ne avevo di cannocchiale, ma ne lanciavo tutta voce d'uccello, uiuia. Avevo una brata che un chissà, in campagna mia a Cosa, tutto bella. Andiamo a tenere a Pavo, se no come si chiamano? Le tortole, le tortorelle. Adesso tu si dici. Tutti no, sono quelle che sono buone, non i piccioni. Oh, i piccioni? Andavamo alla stazione con i pallucci, con i darassi gabbigliani. E vabbè, io la sassa lì dentro un zindai, è un casino. Non ci aveva fermato la Polfer, che se mi dubbio che ero un picciolo vivo sotto la maglietta, se era quando, che se palpitava, che mi disse, tu cosa c'è lì dentro? No, niente, vieni con noi, tutto, nome, cognome, tutto il valso, la nirata, tu? Per scappare magari, capito? Per scappare da loro. Io mi ricordo, un anno io ero lì, hai visto dove c'è la stazione, dietro, all'altra parte, che c'è l'entrata lì, carico e scarico merci fanno per la stazione. Io ci ho lavorato 4-5 mesi lì, col carrello elevatore a caricare i vagoni. Dalla parte dove ci sono i bagni o dall'altra parte? No, hai visto dove c'è, per dire, il bar, no? All'altra parte dei binari, di fronte, passando da dietro proprio, da dove c'è il cimitero lì, vai più su e c'è un'entrata, c'è per entrare alla stazione, dove fanno carico e scarico. Ah, ho capito, sì, non ho capito, sì. Dove c'erano le poste prima, Esatto. Sì, ho capito. E lavorato per le ferrovie dello Stato? No, lavoravo per una cooperativa di Porto Torres, lavoravo. E mi hanno mandato lì per caricare questi vagoni col carrello elevatore. Io mettevo dentro il vagone, dove c'era la porta, no? Ci mettevo le pedane. E poi c'erano due uomini che con trasparenza che mettevano a posto lì dentro il vagone. E mi avevano praticamente denunciato perché c'erano le tegole nel servizio, stavano prendendo tutti il canto, stavano prendendo chi lavorava lì. Poi non lo so, no, io ci ho lavorato poco, 4-5 mesi, 6 mesi, massimo 6 mesi mi sembra che era, adesso non mi ricordo bene, e poi io sono ritornato lì a Porto Torres, a Lenica. Tu sei per carrellista, infatti? Sì, sempre. E io già lo guidavo il muletto stesso, lo guidavo due tipi di muletti, poi ho guidato anche quello a motore, quello elettrico, quelli elettrici. tutti i tipi, anche quegli OM che stai dicendo tu, quelli erano vecchi però, quegli OM, quelli poi ce li hanno tolti perché erano fuori legge anche per usarli. E poi abbiamo avuto l'Eister, tanti PCM ne abbiamo avuto una barca. Di tanti tipi ne abbiamo avuto, ultimamente sarà stato un anno e mezzo, quasi due anni prima di andarmene, e avevamo elettrici. Sì, perché poi dentro non puoi entrare con quelli, con il motore non ci puoi entrare dentro il capannone. No, ci hanno proibito di entrare dentro il magazzino, all'interno, coi diesel. E allora ci hanno portato questi qua, ma lascia perdere. Facevamo, da quando ci hanno portato quelli elettrici, facevamo la metà del lavoro che svolgevamo in un pomeriggio, in una sera, con quelli di diesel. Sì, hanno anche meno portato, hanno più forza quelli di diesel. Tu pensa che io di quelli di diesel ci ho lasciato il piede sotto. Avevamo chiamato un tipo che c'era il capannone a fianco e avevamo chiesto la cortesia se poteva venire col muletto perché c'era un americano da scaricare, e siccome c'erano molta amicizia tra i principali, glielo ha dato questo qui, ma non ne sapeva guidare il muletto, ha sbagliato la marcia, casè, invece mentre la marcia avanti con la pedala di zucchero, cazzo, ha messo la prima e mi è passato di tanto l'ubì. Quelle non bisogna scherzare, quelle bisogna stare attenti, bisogna stare. Guarda, noi ci avevamo, il prodotto era a casse, avevamo dei cassoni che pesavano, ogni cassa pesava 1200 kg, col diesel prendevamo due casse, 2400 kg, mentre con l'elettrico con 1000, solo 1200, non di più, perché si bacava. E da voi si offende, poi no, noi sono diciamo molto più delicati, quello diesel vabbè, per furi è molto meglio, prende più portata. Sì. Non so se te l'ha mai raccontato Marco, ma lì sembravamo dei pazzi quando era a carico, la mattina specialmente. Cosa caricavate qui? Caricavate dalla fabbrica la lavora a parte sopra la tutti di luce? No, sugli articolati, no? Sugli articolati. E noi ci facevamo in autore, ci facevamo ultimamente erano pochi. Ma prima ci facevamo anche 20, 25 articolati in autore, ma lo che fermava a minuto. Muletti quanti ne avevamo? Muletti ne avevamo, allora erano quasi 20 erano, perché ci avevamo anche quelli di scorta, però tutti a motore. Poi piano piano hanno calato, siamo arrivati a 6. C'erano anche chi portava i muletti, tutti quei muletti, quindi diciamo eravate in tanti. Certo che eravamo in tanti, eravamo pariti i carrellisti, infatti ce ne siamo andati, in pensione ce ne siamo andati tutti i carrellisti, l'abbiamo rovinata quell'azienda, perché adesso ci hanno pochi carrellisti, ci sono rimasti solo i vecchietti, qualcuno, mi sembra che sono due o tre, quattro sono, che possono usare il carrello, e gli altri devono imparare. Marco non lo guidava il carrello? Sì, Marco lo guidava, però non caricava. Marco aveva il patentino lo stesso, e c'era, vabbè, aveva, adesso non ce l'ha più, adesso è scaduto. Però lo usava solo a livello di impianto, capito? Svuotare la ruliera, mettere le casse in linea, queste cose qua, non a caricare. E ho capito, le manovre non le facevo. No, io usavo anche manovra che all'ultimo piano ci cioè, scala a prendere il pedale. Capo. Sì. Cioè, io mi devo essere pratico, perché quanto era alto di braccio quello che avevi tu? Non lo so, praticamente facevo 1, 2, 3 piani. 1, 2, 3 saranno 4 metri, più o meno, così. Forse anche qualcosa di più. E se non c'entravi bene, mica c'è tutto canto, bisogna sapere traslare, fare, se non sai fare il lavoro, meglio che lo lasci il muletto perché è pericoloso, la volta il principale, fallo prendere a me. Avvidiato, si è tutta la bocca, allora, ma vuoi lascia stare, no, non ne prendo più. Io ne avevo uno da 6 metri, tu devi vedere quando stavi a 6 metri, però ti dicevo io, ti dicevo roba brusca, perché anche se no non è uscito. Il braccio è uscito, una volta mi è successo, ho preso la pedalata e dopo il mio collega ha fatto una cazzata a metterlo in alto, perché la roba pesante la doveva metterla in basso e la roba più leggera la mettevamo in alto. Lui deve essere un altro fatto spazio e ce l'ha messo in alto, io sono andato a prenderlo e l'altro arrivava con quelle pedane leggere. Io sono andato a prenderlo e si è truccato la pedana. Cazzo, le caglie di tutto un lato. Capo, te lo immagino. È pericoloso, purtroppo, a parte che il peso non vuole tutto in alto, il peso vuole diviso, specialmente negli scaffali, perché a parte che negli scaffali non si mette la pedana intera, non si mette, si mette diviso là, perché devi dividere quanto c'hai, 6 metri di scaffale, su 6 metri devi andare sempre il peso sotto, mai sopra. Siamo rientrati, rientrato. E riprendi, capo? Positivo, sono rientrato io, ci dovrebbe essere anche Tino, ci sei? Sì, ci sono, non so se sta andando bene questo microfono, datemi conferma. A su questo momento? Va bene Tino, ce l'ho bene, è stato primo detto, non andava bene, va benissimo. Capo, stiamo parlando di Mourinho. Aspetta, ma cos'è che hai detto? Al 100%, è bello. È amplificato, sì? Sì. Va bene, allora li mettiamo un chiodo, dai. È differente dall'altra, molto? Beh, ma non me lo metto l'altro. No, Tino, non gli mettere il chiodo. Perché glielo devi mettere? Con tutto il saldatrice. No, vabbè, volevo dire quella prima che sono entrato, la mia solita radio, è differente oppure c'è una compatibilità di entrambe, dai? Beh, se avevo detto una cosa all'inizio non me la ricordo. Ma io ci metto poco a cambiare. Capo, perché devi cambiare? Lasciala così. No, dico, ci metto poco a cambiare il radio. Oh, lui che è più forte, cavolo. È un abisso. È quello che volevo sapere. Aumenta la macchina dell'altra. Allora, ho aumentato a un pochino. Vediamo un pochino se è cambiato. Aumento un'altra appena, aumenta. Così siamo a mezzogiorno, avanti. È la salotte, la per la battaglia. Ma lascia mezzogiorno. Parla, va avanti. Cos'è Gianni? Questa è la salotto, vero? No, parlate della battaglia. Sono belli tutti e due. Ma io volevo raggiungere un compromesso, vediamo un attimo, così che siete in tre. Eccolo qua. Vediamo se ha cambiato qualcosa, così è troppo forte. No, è sempre quel tipo di radio. La salotto. È bella come radio, limpida. Però l'altra rimane più aggressiva, capito? Sì, non lo metto in dubbio. No, ma siccome sto provando un potenziometro, volevo sapere se ha cambiato da così per dire a così, se c'è stato un cambio di potenza. Guarda, io posso dire questo primo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il secondo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questo è l'ultimo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buttaci via la protezione. No, non cambia nulla. Ne quindi lo devo aumentare da un'altra parte. E allora, come state parlando di muletti? Cosa avete rotto col muletto? Io l'ho appena arrivato. Mamma mia, ui. Mi si è rotta in furgone una pedana di latte e mi è rimasto loro una settimana. Ma mi si è rotta perché il mio collega intelligentemente l'ha messa all'ultimo piano. Io l'ho inforcata, però sicuramente le forche non erano entrate bene, dovevo mandarla avanti ancora un po'. Mi si è troncata la pedana che non era un'eroparente, ma era di quelle pedane leggere. Si è truccata e mi si è fatta addirittura, nel momento è entrato il principale. Adesso metti le mani in tasca e paga. Avanza, hai trovato la colazione già, hai fatto la colazione. Oh, ho aumentato, guarda un pochino da lì. E le scale. Peggiorato ti, ha peggiorato, c'hai l'alternata dietro. L'ha giovato danno già, danno lì l'ha giovato, e tutte le scanne. Sì, che non trabaglia, non li guarda. Allora, per carità, vabbè, dai, non fa niente, ormai è dimenticato. Aio, siete in pensione e volete continuare a fare del lavoro, insomma. E ci manca, forse, però, guarda, se mi chiamano ci vado subito. No, io non ci vado perché sono questa dolore. Ma tu sai in casa, no, fra? Ma non sto dicendo di andarci per rimanerci, per dire una settimana. Vai e comprati una canna da pesca, un goffetto, un legno te ne va a pescare, fra. Vai e comprati una motozappa, che è meglio. No, Tarrere non la c'è un bel, motozappa lunga, non ne comprare più. Sei lasciato a me e avevo fatto tutto a cemento. Guarda, capì, no, ho aumentato da 2 cc, a cattina ha migliorato, poi è rimasto adattabile. Cupa, sì, è diventata più cupa. Niente, quindi questa è la massima, credo. Yes, com'era prima, Tino, andava benissimo. È come prima, l'ho messa come prima, a 25. Sì, ma sto dicendo, com'era prima, era tranquilla, era bella, sì. Va bene, dai, mi ho tolto un dente, non ce n'è, inutile, dovrei rigirarci attorno. No, la radio è bella, Tino, allora io, guarda, ti posso dire una cosa. Io questa qua, la radio, questa che sto usando adesso, per i miei gusti e per il mio orecchio la preferisco, perché a me piace molto la roba, mi piace che sia forte, però è comprensibile. Per esempio, questa che sto usando io adesso non è comprensibile come quella lì, è molto più forte, però a me piace anche la situazione tranquilla, e perlomeno io adesso ti sto ascoltando non bene, ti sto ascoltando benissimo, e non so se gli altri ti possono dare queste conferme che ti sto dicendo io, però a me la modulazione è così, perché non è di quelle proprio da salotto, è un salotto un po' incasinato, almeno la comparazione che ti posso dare io qua al mio QTH è che è un salotto grande, quindi è corposa, vai Franco. Capo, no, c'è poco da dire, hai detto tutto tu, è così. No, per un salotto incasinato è meglio questa. Qui c'è un casino proprio. Non lo fai. Esatto. Riprendi Gianni. Un attimo, vengo subito. Ehi, dai. No, comunque ti lo sto mettendo la radio, non è che anche l'altra è molto chiara, non è una brutta radio, però se tu mi parli di potenza, ti dico è più potente quella là. L'altra, quella che stavo usando prima? No, questa che sto usando adesso. Ah, pensavo. Allora, diciamo che la radio è la stessa, ok? Sono dei microfoni differenti con un mixer attaccato. Calma, questa è col mixer? No, questa è senza. Che mamma, la video, c'è poco da fare, più forte. Almeno che il mixer vuole regolati... diciamo i cursori, magari te la fa più alta, più potente. Sì, infatti. E vabbè. settimana, lasciamo così, vediamo un pochino. Rimetto l'originale, però il mic, capì? Mi dai l'ultima controllatina perché questo lo posso staccare. Rimettiamo a palmare di nuovo, dai. Sì, sì, facciamo un attimino compagnia a Gianni finché non rientra a Franco e poi ci spostiamo di là, sì, ok. Che Franco si è allontanato un attimino, riprendi Gianni. Cappa, dai, se puoi andare vai, dai, sono rientrato, era solo per bere una birretta. Va bene, due minuti e ritorniamo. Arriviamo, Cappa, ecco qua un comodo. Ah, il suo. Sì, hai detto, a chi è? Basta, però si manca un quarto. Ma il muletto, cuccio, ma hai guidato, dai. No, non è cosa quella. Tu dove ci fichi non fai la bambina? No, guarda, noi bevevamo più tutto quanto, ma ubriache mai. Sempre da Gianni, chissà non è cosa da guidare da embriaco, a chi lì non è che fai danno solo al materiale, se ti fidi che sei tu più ubriaco fai danno al remorchio, alla gente, è a te stesso. Ah, sto scherzando, ti pare che guidi embriaco, va. Noi ci avevamo, a improvviso ci avevamo l'acero sempre addosso. Beh, anche noi, come tutti, se ne usciva da tutte le parti. Infatti, e se non ci trovavano sul carrello, che eravamo dentro mangiandoci un panino, venivano dentro, perché ci cercavano, perché sapevano chi c'era e chi non c'era. Avvoltoie. Casino era. Però di notte invece ci sbagliavamo qualcosina, però no imbriagati, ci bevevamo, ci facevamo le bistecche, ci facevamo cosa rosso e via, invece qualche bicchiere di vino ce lo bevevamo, però era pericoloso lo stesso, perché qualche notte sono venuti anche di notte. Erano contro lui e basta. No, la macchina dell'Asl. L'Asl. Ah, non c'entrava l'Asl. Ci ha parlato, ti va via nel chilometro. Non ci credo. No, non lo sapevo questo. No, io stavo parlando del principale, che mi bucava di tre parti a me, quando stavo caricando. Dove sei, dove non sei, dove stai andando, voi. No, la roba che parla non era fottia manco barricato, non mi succedia. Se non lo chiamavamo lui, vuol dire che stava andando tutto bene per lui. Ma voi eravate una cooperativa, lui sì? Sì, una cooperativa eravamo. Ah, ecco. E di dove era principale, di Sosso? No, di Porto Torres. Allora, abbiamo avuto Antonio Colombo, non lo so se lo conosci, Antonio Colombo, Tommaso Pulina, c'era, e via. Poi all'inizio era uno di Sosso, poi quello di Sosso ha mollato tutto, se n'è andato e sono entrati questi di Porto Torres. Poi di quelli sono entrati questi di Cagliari. Ma Cagliari poi però sono durati pochi anni, quattro anni mi sembra, e poi sono spariti. E questo Colombo lo conoscevo, se era quello che lavorava nel coso della lentezza urbana dove si butta la roba, il ferro eccetera eccetera. Esatto, è lui. Sì, ho capito chi è. Stava nella cabina, quando entravi ti chiedeva i documenti. Già hai capito allora. E a Puglia, qui la tua destra sono entrato tante volte lo stesso. Andava a consegnare all'hotel, al motel della zona industriale, e poi andavo alla Tunisia Sparsi. Io ero più avanti della Tunisia Sparsi. Sì, sono entrato tante volte. All'inizio per me era via del ferro, via che punti, via strada. metri, quando arrivavo fino alla Tour d'Espace, quel campannone che c'era giù, arrivavi alla strada, lì all'incrocio, e poi scendevi quella discesa giù, c'era un campannone, c'erano delle macchine articolate che caricavano lì. Lì c'ero io. Ecco, e adesso mi dammi di tu, sono un po' che non ci sono più. Però queste sono anche in età, sono arrivato cristiano qua. Cane, vuol dire che è stanco. E abbiamo girato stasera, e poi dopo andato a casa e ha bevuto roba di mezzo litro d'acqua, ci ha bevuto, perché era stanco e aveva sete. Si cammina, è ovvio, anche lui è come le persone, loro sono, vivono, mangiano, bevono, sorrasseggiano bene. Ma loro stanno meglio di noi, loro non lavorano, noi per farci su dovevano andare a lavorare, e di mangiare i vizi di robe e basta. Vabbè, ci mancherebbe altro, mandarli anche a lavorare. E cioè, ci sono i cari che lavorano, i cari poliziotto lavorano, i cari pastori lavorano, ce ne sono tanti, i cari da neve, ci sono i cari da slitta, tutti lavorano. Vabbè, noi abbiamo noi di quella roba lì, purtroppo. Sì, eppure ti dico una cosa già, a volte mi manca il mio routine di lavoro, vai. A volte quando trovo qualche collega che mi dice, beh, ti manca, ma una ghita me la rischiamo là. A me non mi pare vedere di non pensarmi di più, a rischio di mangiare, e stare lì tutto il giorno lampando, Poi quando facevo la sera dovevo entrare alle 2, dovevo mangiare il sanguglione, portare il cane, mangiare il sanguglione, cucinare io perché ero solo, cucinavo io, facevo tutto da solo, mi manco già lo sa, a quella da lì dovevo andare a cucinare, portavo giù il cane e poi andavo a lavoro subito. Era tutta una cosa insidia, non fare una cosa dopo l'altra. E poi finivo verso le 8:30 le 9, quando non succedeva l'imprevisto, si bloccava il cancello, non voleva chiudere, usciva dal binario, e dovevo andare di nuovo a prendere il muletto, alzare il cancello, perché magari qualche macchina lo urtava e non chiudeva, e lo faceva andare fuori dal binario, che sul cancello è fissato, dovevo alzarlo col muletto, rimetterlo nel binario e poi chiudeva a rischio. Come mai? Perché lo urtavano? Rimanevamo già aperto. Ma chi lo sa se lo urtavano, se si spostavano da solo, che ne so, una volta usciva dal binario comunque, andavamo a chiudere, allora di andarcene, no, di nuovo riaprire tutto, prendere il muletto che era attaccato già per caricare, rimettere il muletto tutto quanto a posto, via, prendere il muletto, sollevare il cancello, l'altro che c'entrava il binario, e diceva basta, basta, piano piano, si naga di virava via. Caspita, un problema allora aveva lì, se si spostava questo cancello, perché quello dovrebbe essere molto molto pesante, perché ho visto che è molto grande. E quello dell'entrata principale, adesso non lo so se lo sta ancora facendo, ma a volte ci andavamo anche alle 10 per comprare questo cancello. Allora di andarci tutti quanti pronti, aiuto, ce l'andiamo, da sarà tutto, via, l'allarme ne messo, tutto controllato, via. Andavamo a uscire, uscivamo con le macchine, andavamo a chiudere col telecomando, blu, e si bloccava. Gianni, vai e prendi un letto, torna tutto a aprire il negozio, togliere l'allarme, mi fa tutto il lavoro contrario. Facevo la mattina, mi alzavo alle 4, entravo alle 6, dalle 4 uscivo alle 4 e mezzo da casa, alle 5 ero a Pontotorro, cioè facendo colazione lì alla Marinella, poi alle 6 prendevo lo servizio, 6 meno un quarto, va, avevamo il cambio 4 un'ora prima. Ecco. Vabbè. Già l'avevo passato tutti i dati là. Entrare alle 7, dalle 7 di mattina, e uscire dalle 7 alle 2 oppure dalle 8 alle 3. Dopo gli ho cambiato il turno, andavo solo di sera, dalle 2 sino alle 9, 9 e mezza, e cosa ce n'era? Ce n'era. Allora, però quando lavoravo la mattina facevo anche le consegne, invece la sera le pescherie, gli scaffali, e mi andava anche meglio fare le consegne, sì, con la verità, almeno non stavo libero all'aperto. Invece lì ero sarrando, ogni tanto erano gli scaffali, mi chiamavano già le pescherie, già le pescherie, E invece a me a cosa mi riferia? Quando facevo la mattina, arrivavo a casa alle 2:30, mi sedevo a mangiare, la telefonata, devi nuovo scendere se puoi, se no dice mi devo arrangiare io, così, non è arrivato il cambio, c'è un problema grosso. aggiù compreso, no? Cambia il tempo di mangiare e poi sto scendendo, se ne giuri. Guarda la Uria, è pesante, sempre pesato, mi sono letto, lui. No, io già facevo diversi lavori, capito? Guidavo il muletto, mi caricavo il camion io, o il furgone, dipende cosa dovevo andare, se il camion o il furgone. Quello caricavo io, lo portavo nei negozi, prima lo portavo alla mastintia, a portare la roba, andavo a Sorso, facevo i viaggi di frutta, a Sorso lo portavo io la frutta, e a Sedoli, dove c'era prima la panetteria. Mal casino era. Non è stato per dire un po' di seduto, però la sera, dalle 5 in su, eravamo allo selvaggio, dalle 5 in su, dalle 4 e mezzo là, eravamo allo selvaggio, ma si lavorava lo stesso, però ogni tanto allo selvaggio ti potevi sbragare, scendere dal carrello e sedere e andartene a fare i capoli tuoi, capito? Ma non per l'estate, perché il lavoro dello selvaggio dovevi fare lo stesso, e si lavorava lo stesso, però ti basavi di più, no? Non era stressante. E no, io specialmente d'estate non faccio mente a far sistemare tutta la merce, perché mi chiamavano sempre per la pescheria piena. Vabbè, da qui la forza di fan tutti. Ti la racconto di me per tua misa. Una sera avevo carrello a motore, e mi fa Marco, dice, ma c'è, ma sta quella roba devi stivare, ha detto, è tutta quella, perché? Ma tu sei malato, come ti sono malato? Quella c'è da stivare, la devo fare, perché sennò domani non ci sta la produzione. No, a me non gravare, noi vabbè vedimo. Dalle 4 alle 7 e sei, alle 7 ho finito alle 7, ma c'è un cavadretto, mi ha detto, dici, e oggi ha reso, dice, non ne vai più, no, non ne posso più, e il cavadretto ha mai dato al magazzino, tu sei malato, tu puoi più dove fare, e allora mi dai. Noi ne avevamo due di muletti capannoni, uno scaricava da una parte, lo scaricava dall'altra, dove stai attento a non sbatterti, non crollarti, perché facevi tutto veloce. Prima la mettevamo tutta quanta dentro, la roba qui piano piano ce la sistemavamo agli scaffali. Come noi, perché quando c'è da fare il lavoro bisogna farlo, e prima lo fai meglio è. Vabbè, io sono di quelli che quando avevo finito non mi davo pace, andarmene a casa qualcosa che l'indomani ci accumulava il lavoro non mi piaceva, allora ce sfasciamo la massa, però lo faccio. No, accumulare è impossibile. Poi, vabbè, tu nell'arco delle tue ore ci avevi sempre scatto da base, più o meno. Io capo, il mio capo alle 4:30 sta a casa, se ne andava e non lo vedi più. Sì, no, no, lui ce l'ha sempre, anche il giorno di festa vedo, anche la domenica, se lavoravi di domenica c'era lui sempre. No, dal venerdì alle 2 non lo vedevamo più sino a lunedì. E lui era diverso, non guardava le feste di nulla, veniva per essere a lui una festa, però veniva a controllare sempre. Tutte le parti te lo trovavi, sbucava di nascosto, da tutte le parti sbucava lui. Scusate, sono entrato per salutarvi, dai, che abbiamo rimesso il mic originale e quindi niente di che. Ne approfitto col mic per salutarvi, dai, Gianni, così almeno mi senti in salotto. Cappagatto. Va bene, dai, Tiro. Ci sentiamo. Buonanotte e buon trabacco per domani. Ciao Tino, dai, buonanotte, buon tutto e buon lavoro per domani, ci sentiamo. Ehi, dovrebbe essere entrato anche Gavino, dai. Va bene, dai, buonanotte a tutti, ciao ciao, buon divertimento, buon questo. Ciao ciao. Cappa, ciao Tino. Ebbene, Gavino, rientratoci. No, sicuramente è andato. Ah, forse c'ha, quest'ora c'ha i cani. Mi prendi già. Scusate se è troppo buono. Tu non lo sai che poco fa ce l'aveva portato? No, è da sudare, non è niente. Oh, Gianni. Ma lo sai che poco fa ci avevi la portante sotto? Ho visto. Lì a 4 volte della pubblica. Poi non si parlava. Beh, allora, freghiamoci. Non lo grido. Infatti, ti passavi alla grande. A Rosa la buona in oggi complice. Ignoriamo. Oh, io. A volte fanno lunga, ragazzi. Ma se non avevo compreso la ira. E io l'ho già compreso da chi sei. Va bene. Va bene. Ma tu facevi. Cosa facevi? Il porta a porta con il furgone? Io facevo consegne a domicilio, consegne asili comunali, consegne ai ristoranti. Facevo un po' di tutto, consegne di tutti i tipi e poi anche i mobili. Come anche i mobili? Anche i mobili, noi vendevamo anche i mobili a Lupin. A Lupin? Ah, no, io stavo dicendo lì ai granai. E ai granai c'era anche Lupin, che era nostro, capito? Avevamo il negozio dei Lupin che vendeva anche i mobili. Oh, non lo sapevo, pensavo che mi ragionavo solo roba per mangiare queste cose qua. E quante volte sono venuto da solo a consegnare i mobili, mi mandavano da solo, dicevano ti fai aiutare da quello che ti ha ordinato. Si ti aiuta Ghisio, se non ti aiuta. Infatti mi sembrava una cosa, quando me lo dicevano, ma io ho pagato, sì, ha pagato il viaggio, ma non lo scarico deve aiutarmi, se no io non so come fare perché non mi danno nessuno. E se tu arrivi e non c'è nessuno, c'è una donna, insomma, cosa vai? Ti devo aiutare a bere. Più di una volta è successo che l'ho chiamato di ponte, una volta in via Roma, a Sassari, che c'erano due anziane, ma noi siamo anziani, come facciamo? Non lo so, ho telefonato a loro, ho detto guardate, mandatevi qualcuno perché qua ci sono due anziani. Dite che chiami il ponte, che chiami qualcuno per farsi dare una mano, se no ce lo portiamo indietro. Non è un discorso quello che deve fare una persona, non è un discorso, perché uno, quando io ordino una cosa la pago, e tu mi devi, specialmente se pago, perché quando io ordino pago anche il viaggio e il montaggio, e se pago il viaggio e il montaggio, io a te non ti devo aiutare, non per te, per dire, però per la società non ti devo aiutare, mi devi mandare gli operai. Ma lo trovavo giusto manco io, ma purtroppo loro ragionavano così. Lei si cade da mare, tutto era finito. Ah, avviati, avvi di, a voi mi ha agevole. Se è una roba leggera già andava bene, ma se è una roba pesante, lui tipo con le cristalliere, era di quel legno ben rosso, capito? Se uno non c'ha nessuno, come fai? Tutta la sua di vai, ma pure, ne siamo no, ma quello è un discorso del cavolo, quello che ti ha fatto il tuo capo, perché io personalmente ho rivolto la cosa così e arrivando dicendo mi devi dare una mano, e dico no, fa una cosa, però te l'hai indarito, poi mangio io. Purtroppo per non pagare gente fanno così, gli amici sì. Ma capito, chiuso. No, sicuramente ho riuscito a dare maggiore i cani, quando ha lasciato a Tino, oppure si è allontanato. Io ti dico una cosa, che l'avrei sputtanato fortemente a quello lì, e non abbiamo un dubbio più. Ma non ne hanno più adesso, non ce ne sono più, non ne stanno più prendendo perché ne arrivavano la metà sfasciati, perché arrivavano da fuori. Cazzate, attaccavano la parte di dietro attaccata con le graffette, riesci a secondo come ti ripigliavi si muovia, riesci a dire. Capo, guarda, io ti dico una cosa, io da poco ho preso tutti i mutui di canale, tutta la canale tutta completa, ho preso che mia moglie ce l'ha dovuta cambiare, che aveva meglio di 40 anni, visto la vice era tutta buttamare, e ha cambiato tutto il soggiorno, ha cambiato tutto, e ti dico che sono arrivati, erano in quattro, hanno scaricato italiani, due garrendi e due piazzetti, hanno fatto anche veloce piazzata, infatti erano in quattro. Ma una cosa bella proprio e precisa. E organizzati. Ma che? Se no le attrezze ne mancavano. Anche noi quando abbiamo preso i mobili da Pinto era così. Lavoravano in tre. Lavoravano in tre e tutto quanto cacciavitti elettrici, eccetera, eccetera. Ci avevano tutto a portata di mano. Poi hanno trovato il comune che ci aveva una scheggiatura, no, questo qui ce lo riportiamo indietro perché è scheggiato. E ne rimaniamo, e qua sono andati, ma se vuole così, se lo vuole così, no, se lo porti qui. È stato onesto, ce l'ha detto lui. Io ho due nipoti che lavorano a mondo convenienza. Lavoro. Lavoro che fanno quei ragazzi sono micidiali, ma non sono i due miei nipoti, sono due fratelli, ma anche gli altri. Lavoro che fanno con la gente di modo convenienza sono micidiali e hanno una velocità facendo il lavoro, è preciso che è micidiale. Ma i mobili sono un po' così, diciamo che sono che costano poco, ma mi hanno detto che non è materiale molto buono. Dipende cosa compri tu. C'hanno il materiale buono e il materiale scadente. Sì, loro sono organizzati, poi non sono stipendiati, mi pare che sono quasi come padroncini, lavorano, se si rompe il furgone devono mettere i soldi. Non sto dicendo un amico che è convenuto. No, non è così, no. Allora, se tu hai un incidente per dire che è colpa tua, che è colpa sua, che non ha rispettato lo stop, non ha fatto quello, o prende una multa per colpa sua, che ha messo in divieto, quello così, allora pagano. Ma se capita un incidente che tipo, perché mio nipote me da poco era corso a Genova, li hanno mandati, perché li mandano a Genova, a Torino, a Milano, li mandano. A Genova ha distrutto un furgone, non era colpa sua ed era anche carico e ha pagato tutta l'assicurazione, ha pagato. Cioè a lui cosa hanno fatto? Subito immediatamente un altro furgone nuovo, li hanno portato, hanno scaricato tutti i mobili, li hanno caricato sull'altro e sono partiti a fare il lavoro. Avvicinati, sono organizzati da numeri furgoni, ho visto. Tutta tutta Italia, e anche all'estero ne ha. Ma ti dico, infatti li vedi da tutte le parti, dove vai vai tu? Lavorano bene, Sì, c'è andato un amico, all'inizio perlomeno era così, hanno detto si deve pagare, se si rompe il furgone deve pagare lì, tutto quanto, anche il motore, eccetera, eccetera. Poi lui se mi è toccato a te, che fa questo, eccetera, se non mi è convenuto mi sono andato, se ho toccato la mano un'altra parte. No, Gianni, non è così, no. Se la macchina ha problemi suoi, il motore, queste cose qua, non ci mettono neanche 5 lire loro, non ci mettono, lascia perdere. Non credo andato nessuno a travagliare, e mio nipote è uno fra il più grande autista. Lascia perdere che non è così. Certo, se ti fai danno per colpa tua e le multe, questo lo sappiamo anche noi, no? Perché penso, anche il tuo principale, per colpa tua, cioè, se metti una macchina in divieto e ti fanno la multa, te la fa pagare a te. E quelli sono tutti i principali che fanno quel lavoro lì. Ma se rompe il furgone per meccanica, oppure si spacca un braccetto, una cosa, mica te la fa pagare a te. Lo prendi, lo porto in officina, la aggiustano e fa tempo ti danno un altro furgone. Io guarda, non ho mai preso multa in vita mia. Con un vigile solo, che in 4 giorni mi ha messo 4 multe. Però le ha portate, il mio principale le ha portate al comando, hanno chiamato il tipo. Lui ha detto che io ero prepotente, e gli ho detto dovevo scaricare in piazza, in quel ristorante che c'è, e portavo la carne, tutta la roba da mangiare e cose. Non c'era mai parcheggio, quindi dovevi per forza metterti in seconda fila, le macchine ci passavano tranquillo. Le tascuti sto scaricando un attimino, e lui mi ha guardato e non ha detto nulla. Un attimino lo scarico e sto scendo subito. Poi viene questa signora e mi fa, si guarda che mi sta mettendo la multa, lui dice. Sono uscito fuori, io mi sta mettendo la multa, glielo ho detto anche. E faccio il suo lavoro, io faccio il mio, prepotente, un pezzo di merda. E per 4 giorni mi ha messo 4 multe. E il mio principale è, no, non è possibile, tu non mi hai pigliato, in tanti anni non mi hai pigliato mai una multa. E in 4 giorni questo qua ce l'ha con lui allora. È andato al comando e gli ha detto che ero prepotente. Gli ho detto, beh, veramente, se vuole glielo dico in faccia. Io gli ho detto, gli ho chiesto solo di scaricare, lui non mi ha risposto, io ho continuato a scaricare. Poi quando sono uscito fuori l'ho trovato facendomi la multa e gli ho detto, come mi sta mettendo la multa? Glielo ho anche detto, lui faccia il suo lavoro, io faccio il mio. Io lo sai cosa gli ho risposto, che tutti nella vita l'aiutino come lui sta aiutando a me, così gli ho detto. Sono entrato, scusate. Ciao dottore. Bene, hai fatto. Vuol dire che è un vigile, quello lì che un vigile stronzo, va più o meno. Avete capito? C'è la bambina che ha vomitato. E niente. Mi prendi già. Come mai? Magari perché ha un po' di tosse, magari la indisposta un po' la tosse, ha vomitato. Ha fatto un casino. Vabbè. Cos'è che succede? A me è successo il ristorante a Roma. Tu pensa tutti mangiando e il bambino è uscito prima fuori, gli siamo andati a fumarci una sigaretta, allora fumavo. Siamo andati con questo amico romano a fumarci una sigaretta fuori e il bambino mi ha messo appresso. Cosa sarà successo? Che magari ha preso freddo, cose, cosa? Stavamo mangiando, a un certo punto l'ha buttato tutto. E tutti quanti quelli che stavano mangiando, tutti puoi immaginare, la schifezza.